Buonasera, l'oliva non c'è ancora, ma poco ci manca e comunque c'è per virtù magnetica. Parleremo dunque di cenotafi, di un percorso che conduce dal sesso incontinente al sesso intercontinentale, di tapparelle e di economia al ristorante.